Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. IPAC IMA è una delle più importanti fiere al mondo nel settore degli imballaggi. Si svolge non a caso in Italia, in questi giorni per la precisione alla fiera di Milano, dato che il nostro paese ospita una delle filiere di produzione di imballaggi più importanti al mondo, per un controvalore di 36 miliardi che diventano 40 se includiamo i produttori di macchine per imballaggi. E in alcuni mercati poi l'Italia domina proprio incontrastata, quello delle confezioni per i farmaci, delle bustine del tè, i pacchetti di sigarette, le bottiglie per l'acqua minerale, le capsule per il caffè. Ebbene, a IPAC IMA ho incontrato Marco Pedroni, presidente di Coop Italia, al quale ho chiesto di spiegarci che cosa si aspetta un grande distributore e produttore di prodotti al dettaglio dagli imballaggi del futuro. Quali le innovazioni più importanti di oggi e di domani? Sentiamo. Una delle tecnologie sicuramente possibili è quella di lavorare su packaging che permettano tempi di conservazione più lunghi dei prodotti senza conservanti o additivi. Un'altra è quella che immagina di poter conservare i prodotti senza utilizzare sistemi di refrigerazione che sono costosi e non sempre presenti, ma lo si deve fare con una tecnologia che riguarda le alte pressioni di lavorazione e di imbustamento dei prodotti stessi. Un'altra è quella che delle etichette parlanti o del rapporto fra queste etichette e le tecnologie, il frigorifero, i banchi, in modo che le informazioni siano scambiate con l'etichetta, l'etichetta ti dica in ogni momento qual è il grado di la shelf life del prodotto o se c'è qualcosa che cambiano colore mano a mano che non il solo prodotto, colore per esempio... possono anche proprio scambiare con le tecnologie, con un chip delle informazioni, certo, e certo, dirti delle cose che in qualche modo sono della storia evolutiva del prodotto. E poi se vogliamo ci sono solo le tecnologie super sottili, leggere, che riducono l'imballaggio. Ci sono gli imballaggi che possono essere fatti con materiali derivanti dall'agricoltura o da rifiuti di tipo biologico, quindi c'è un grandissimo campo di innovazione che sicuramente farà bene all'ambiente ma anche ai consumatori. Benefici per l'ambiente, dice Pedroni, già perché tutti questi imballaggi più o meno high tech comunque rischiano di diventare, in men che non si dica, rifiuti. Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è impegnato nel promuovere il più possibile il riciclo degli imballaggi usati e in generale la loro riduzione. Simona Fontana, che in CONAI si occupa proprio di strategie di prevenzione, ci parla delle linee guida che il consorzio ha emanato in una logica di maggiore sostenibilità. Sentiamo. Allora, noi stiamo fornendo alcune indicazioni a produttori e utilizzatori degli imballaggi che vogliono lavorare per una maggiore sostenibilità ambientale degli imballaggi che utilizziamo comunemente nelle nostre case. Intanto la prima leva di prevenzione è la riduzione alla fonte, quindi ridurre l'uso di materia prima nella produzione dell'imballaggio, senza dimenticarci che l'imballaggio però deve mantenere le sue solite funzioni di garanzia, protezione, informazione che devono arrivare in casa del consumatore. L'altro aspetto molto importante è la semplificazione del sistema dell'imballaggio, ossia intervenire per far sì che l'imballaggio sia più facilmente, ad esempio, separabile laddove composto da materiali differenti. L'utilizzo di materiale riciclato è sicuramente una delle leve che a noi, in quanto attivi nella fase di fine vita, nuova vita dell'imballaggio, sta molto a cuore, quindi il poter introdurre negli imballaggi che vengono immessi al consumo anche materiali che derivano dal riciclo degli stessi imballaggi, perché no? Oggi questo non si può fare, comunque è problematico da un punto di vista tecnologico o da un punto di vista, non so, normativo? È un tema che si sta sempre di più diffondendo, cioè l'utilizzo di materiale riciclato all'interno dei nostri imballaggi che comunemente consumiamo è una di quelle azioni che negli anni sta prendendo sempre più piede. Questo... volevo capire questa cosa, perché non si è fatta? Perché è impossibile prendere una bottiglia di PET, trasformare una bottiglia di PET per una ragione tecnica di processo o per altre ragioni? Allora, sicuramente sta crescendo la quantità dell'offerta di questi materiali anche grazie all'operato del sistema consortile, quindi di CONAI e consorzi, e alla raccolta differenziata che sta crescendo e quindi rende disponibile nuove materie prime e seconde. Dall'altra parte sicuramente l'utilizzo di questi materiali necessita di aggiustamenti nei processi di imballaggio. C'è un tema di, diciamo, purezza del materiale che raccogliete, di averne in quantità e di qualità e poi di processo, però si può fare, insomma, è una roba più raffinata sostanzialmente. Assolutamente. Perfetto. Sì. Chiaro. Quindi questa è sicuramente una delle leve che noi caldeggiamo. Poi ci sono altre iniziative legate ad esempio a tutto il tema dell'ottimizzazione della logistica. Noi parliamo sempre e spesso di imballaggi primari, quelli che portiamo a casa. Ci sono però un mondo di imballaggi secondari e terziari legati al trasporto delle merci, dove assolutamente è prioritario intervenire per riuscire a ottimizzare questi processi di trasporto del bene e quindi ridurre conseguentemente e notevolmente l'impatto ambientale. Per questa sera è tutto, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a lunedì. Da Maurizio Meris, buona serata, buon fine settimana. Vi lascio a Effetto Notte.